Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e benvenuti alla prima puntata del nuovo anno di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta il mondo tenendo conto di tutti gli animali, umani e no, con uno sguardo particolare a questi ultimi. È la puntata numero 570, parleremo del Covid e dei modi per combatterlo, parleremo dell'impatto ambientale della filiera alimentare mondiale e del cambiamento in corso di abitudini alimentari. Andremo negli Stati Uniti per segnalare una buona pratica sperimentata nello Utah. Sia la musica che la ricetta della settimana per questa puntata saranno a cura di Gabriele Palloni. Ci lasciamo alle spalle un anno indimenticabile, l'anno della pandemia, dei milioni di morti per Covid, l'anno in cui abbiamo scoperto, ed è stato scioccante, quanto siamo fragili, fragili come persone, fragili come società. Il presente è diventato un accidentato percorso quotidiano, fatto di divieti, rinunce, precauzioni. Il futuro, quanto mai incerto. Come abbiamo rimarcato fin dall'inizio della pandemia, il coronavirus che sta mettendo a soqquadro il mondo è a suo modo un grido di dolore del pianeta e di tutti gli esseri viventi. Un grido rivolto alla società umana che con la sua scellerata azione distruttiva ha reso possibile il salto di specie, il passaggio di virus finora in equilibrio con gli elementi naturali dagli animali selvatici agli umani, con gli effetti che abbiamo imparato a conoscere a nostre spese. Ora è tempo certamente di guardare avanti, ma di apprendere fino in fondo la lezione. È tempo di cambiare molte, moltissime cose. È l'ora di inventare un nuovo, diverso modello di sviluppo. Quello oggi dominante è la causa diretta del collasso sociale, sanitario e ambientale in corso. Prendiamo a prestito le parole del WWF, che nel salutare il nuovo anno dice: se c'è una lezione che dobbiamo imparare dal 2020 è che la nostra salute dipende dalla salute della natura. Niente su questo pianeta ci è indifferente. La crisi climatica, la scomparsa delle foreste, la distruzione degli ecosistemi, l'estinzione di specie e habitat, i nostri consumi e la produzione insostenibile di cibo hanno un effetto boomerang sulle nostre vite. Anna Maria Manzoni, psicologa e animalista, più volte citata e intervistata nella nostra trasmissione, in un intervento reperibile sul sito comune-info.org, scende in profondità e fa notare un'incongruenza. In tutti i discorsi, propositi, progetti per arrivare a una nuova normalità post-pandemia, c'è un'omissione incomprensibile. Si trascura immancabilmente di considerare l'enorme peso della filiera alimentare nell'insieme dei fattori che sono all'origine del collasso ambientale del pianeta. Nemmeno i movimenti ambientalisti si salvano, dice Manzoni. Si dimentica, per esempio, di considerare che personaggi come Greta Thunberg, all'origine del movimento Fridays for Future, o Carola Rackete, la capitana che guidò in porto, nonostante i divieti, una nave carica di profughi, nonché attivista di Extinction Rebellion, sono entrambe vegane. E lo sono per motivi etici e politici. Se ne dimenticano i loro stessi movimenti. Si dimentica ancora, dice Manzoni, quanto dice Greenpeace, quando afferma senza mezzi termini che le conseguenze peggiori della crisi climatica in corso non possono essere evitate se, a livello politico, si continua a difendere la produzione intensiva di carne e latticini e non si decide di favorire la transizione verde, invece di limitarsi a citarla. Si ignora il premio Nobel per la pace 2007, l'indiano Rajendra Pachauri, direttore dell'IPCC, che ha costantemente invitato una riduzione del consumo di carne quale scelta personale decisiva per contribuire a ridurre le emissioni di gas serra. Si finge, dice ancora Manzoni, di non sentire Nicola Stern, presidente del Grantham Research Institute on Climate Change presso la London School of Economics, quando al Times dichiara che la carne determina uno spreco di acqua e produce elevate emissioni di gas serra. La produzione di carne, dice Stern, esercita un'enorme pressione sulle risorse del pianeta. Una dieta vegetariana è decisamente preferibile. A fronte di tutto ciò, ci ricorda Anna Maria Manzoni, il 21 ottobre scorso il Parlamento europeo ha confermato il sostegno economico al sistema degli allevamenti intensivi, scartando l'opzione di finanziare le misure ambientali. Ce ne sarebbe abbastanza per scoraggiarsi, ma ci uniamo alla considerazione che chiude l'articolo di Anna Maria Manzoni. Sì, il cambiamento che vuoi nel mondo è l'esortazione gandhiana non da ripetere fino a svuotarla della sua potenza, ma da tradurre in stile di vita. Whatever happens, I'll leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. All at all, does anybody know what we are living for? I guess I'm learning, I must be warmer now. I'll soon be turning round the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside in the dark I'll make it to be free. So much gone. So much. Tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friends. So must go on. Yeah. So must go on. I'll face it with a grin. We'll be right back. Il quadro d'insieme in questo mondo alle prese con la pandemia è insomma preoccupante e tuttavia non mancano segnali incoraggianti. È su questi che dobbiamo scommettere. Pensiamo proprio al cibo, indicato come la prima grande rimozione da Anna Maria Manzoni, sulla scia di molti altri osservatori, peraltro, come la nostra trasmissione ha documentato nel tempo. L'Associazione Essere Animali, in un recente intervento, fa notare come alcuni dati mostrino un progressivo aumento dei consumi di cibi vegetali in sostituzione della carne. All'origine di tutto, probabilmente, il rallentamento subito a causa del Covid dalla filiera di produzione della carne. C'è stata cioè una riduzione delle attività di allevamenti e macelli, soprattutto negli USA, e ciò ha avvicinato ulteriormente, secondo Essere Animali, le persone all'acquisto di cibi vegetali. L'associazione fa riferimento a uno studio dell'Istituto di Ricerca Nielsen pubblicato dal Financial Times. Secondo questo studio, la capacità di produzione della carne è diminuita sensibilmente, tanto che Tyson Food, il più grande produttore di carne degli Stati Uniti, ha già chiuso diversi dei suoi stabilimenti. E la borsa ha reagito immediatamente, con le azioni della Tyson Food che hanno avuto un calo del 5%. Hanno segnato un netto aumento invece gli acquisti di alternative vegetali alla carne e anche questo si è riflesso in borsa, con le azioni in particolare di Beyond Meat che hanno preso a volare con un rialzo di oltre il 40%. Beyond Meat è la società che produce hamburger su base vegetale. Questo exploit in borsa è legato anche al recente annuncio di Starbucks di introdurre nei suoi punti vendita, nelle sue caffetterie, alcuni prodotti di questa azienda. Qualcosa dunque sta cambiando nelle abitudini alimentari, almeno negli Stati Uniti, che sono peraltro fra i maggiori consumatori di carne al mondo. Secondo Markets & Markets, il settore dei sostituti vegetali della carne potrebbe passare da un valore di 3,6 miliardi di dollari nel 2020 ai 4,2 del 2021. Secondo Essere Animali, questi dati permettono di sperare che le persone si orientino davvero in direzione di un'alimentazione più vegetale anche in futuro. Se da una parte, infatti, la trasformazione attuale dei consumi è spinta dalla chiusura di alcuni allevamenti e macelli, è anche vero che le persone stanno acquisendo maggiore consapevolezza riguardo alla correlazione fra la diffusione dei virus e lo sfruttamento degli animali. Un'alimentazione vegetale, conclude l'associazione, è il modo più semplice e diretto per tutelare la vita degli animali, salvaguardare il pianeta e la nostra salute. Sempre a proposito di alimentazione, il giornalista canadese Gwyn Dyer, specialista di politica internazionale, in un articolo pubblicato sul sito di Internazionale, si occupa dei buoni propositi annunciati da vari governi di superamento dell'era dei combustibili fossili. Un proposito lodevole, ormai quasi scontato nei programmi politici, ma tutto da costruire. Fra le principali cause di emissioni di gas serra prodotte dalle attività umane, scrive Dyer, c'è l'agricoltura, e oltre metà dei gas serra legati alle forniture alimentari proviene dalla produzione della carne. Questa è la parte del rompicapo più difficile da risolvere, secondo il giornalista, perché le persone sono molto legate al consumo di carne e non esiste un valido sostituto. Ma subito dopo Dyer aggiunge, fino a poco tempo fa, e informa su un esperimento in corso in Israele. Vicino a Tel Aviv è stato inaugurato un ristorante di hamburger chiamato The Chicken. Il luogo, dice Dyer, ha un aspetto piuttosto ordinario, tranne che per un muro di vetro nero, attraverso il quale si possono osservare persone in camice di laboratorio muoversi fra grandi cisterne d'acciaio inossidabile, chiamate bioreattori. È lì che producono il pollo. Si tratta di pollo coltivato, cioè cellule vive di vero pollo allevate in una soluzione, che contiene tutti i necessari nutrienti e che raddoppia di volume ogni giorno. Niente contaminazione batterica da scarti animali, niente ormoni antibiotici per accelerare la crescita e rallentare la diffusione di malattie, niente terreni usati per coltivare mangimi, niente 130 milioni di polli macellati ogni giorno. Così Dyer, che giudica molto promettente questo esperimento, che ha alle spalle un'azienda che produce carne artificiale, Super Meat, anche se al momento solo a livello sperimentale. Dal punto di vista tecnico, nessun ostacolo impedisce ormai di usare petti di pollo coltivati, dotati della consistenza e del sapore dei polli reali, dice Dyer. Manca una regolamentazione che consenta di commercializzare questi prodotti e soprattutto c'è un problema di costi. Ogni hamburger dovrebbe costare $35, troppo. E tuttavia, secondo Ido Savir, amministratore delegato di Super Meat, la carne coltivata entro 6 o 7 anni costerà come la carne macellata. Siamo all'inizio di una transizione globale ad alta velocità, dice Dyer, almeno per il mercato di massa. Passeremo dall'allevare, nutrire e macellare bovini, suini e ovini alla creazione di una versione coltivata della stessa carne. Quanto tempo ci vorrà? Fra i 10 e i 15 anni. Deve succedere velocemente perché la carne e la produzione casearia da sole causano quasi il 15% delle emissioni di gas serra. Insomma, fra cambiamento delle abitudini alimentari e soluzioni tecnologiche per gli accaniti consumatori di carne, negli anni a venire, con ogni probabilità, vedremo dei forti cambiamenti. Gabriele Palloni è il nostro tosco vegan chef e nella sua rubrica etico-gastronomica Il pasto gentile ci offre ogni settimana l'occasione di unire il piacere del cibo con la serenità dell'agire non violento e lo fa ogni volta prendendo spunto da uno dei temi affrontati nella puntata. Stavolta gli abbiamo chiesto una ricetta dedicata al nuovo anno. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro da poco uscito Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. In questa puntata voglio raccontarvi una ricetta allegorica. Quella della tartatin è la storia di una torta nata da uno sbaglio, ma una volta capovolta si è rivelata una prelibatezza. Che questo sia di buon auspicio, affinché da un evento negativo possiamo recuperare qualcosa di buono. Proviamo a ribaltare quest'annata nefasta e riaprire il futuro. Gli ingredienti per uno stampo da 20 cm per la tartatin sono: per la pasta brisée 300 g di farina tipo 0, 150 g di margarina autoprodotta, 50 ml di acqua, un pizzico di curcuma in polvere e un pizzico di sale. Per il caramello 150 g di zucchero di canna, 60 g di margarina autoprodotta e poca acqua. Per il ripieno 5 mele rinette, un cucchiaio di zucchero di canna e un pizzico di sale. Iniziate preparando la pasta brisée. In una boule impastate la farina, la curcuma, la margarina e l'acqua a temperatura ambiente. Aggiungete un pizzico di sale e lavorate rapidamente fino ad ottenere una pasta liscia ed omogenea. Lasciatela riposare almeno 30 minuti in frigorifero, avvolta nella pellicola. Nel frattempo sbucciate le mele e privatele del torsolo, quindi dividetele a metà. Mettetele in una boule con un cucchiaio di zucchero di canna e un pizzico di sale integrale. A parte, in una casseruola col fondo spesso fate sciogliere lo zucchero con pochissima acqua e fatelo caramellare roteando la casseruola senza toccarlo. Quando avrà raggiunto un colore ambrato aggiungete la margarina a temperatura ambiente e sempre roteando fatela incorporare al caramello. Lasciate riposare un minuto e versate sul fondo della tortiera, precedentemente spennellata di olio. Adagiate le mele con la parte del torsolo verso l'alto, mettendole il più unite possibile. Stendete la pasta brisée a 2 mm di spessore e adagiatela sopra le mele. Togliete la parte in eccesso e rinforzate un po' i bordi, ripiegandoli leggermente all'interno. Fate cuocere in forno statico a 180 gradi per 30 minuti. Lasciate riposare per 20-25 minuti prima di rigirarla e toglierla dallo stampo. E se vi state chiedendo come ottenere la margarina autoprodotta, ecco qua il procedimento per 300 grammi. 100 ml di latte di soia naturale, 200 ml di olio di semi di girasole e un cucchiaio colmo di lecitina di soia. Nel bicchiere del mixer unite la lecitina, il latte di soia e l'olio, quindi lasciate riposare per 10 minuti. Successivamente azionate il mixer ed emulsionate fino ad ottenere una crema densa. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Per chiudere, una buona notizia che arriva per una volta dagli Stati Uniti, in particolare dallo Utah. dove 2 anni fa è stata costruita un'opera pubblica meritevole e degna di imitazione, un ponte dedicato agli animali selvatici per favorire il loro passaggio attraverso un'autostrada. È inutile dire che l'obiettivo principale dell'opera era eliminare o almeno limitare gli incidenti stradali causati dal passaggio di animali. Ma quel che conta è la sostanza, e cioè il fatto che il ponte funziona. Gli animali lo utilizzano, gli incidenti sono molto meno frequenti, la convivenza fra selvatici e automobilisti è quindi radicalmente migliorata. L'agenzia dello Utah, che si occupa di ambiente, ha pubblicato nei giorni scorsi un video nel quale si dimostra l'utilizzo che viene fatto del ponte, attraversato da alci, istrici, cervi, persino orsi, che camminano su questo ampio passaggio che scavalca la trafficatissima autostrada, un'autostrada costruita in mezzo alla foresta. Il cavalcavia, piuttosto largo, è pieno di rocce, massi, tronchi, in modo da simulare l'ambiente naturale. Insomma, si può fare. Non è vero, come si sostiene sistematicamente da noi, che l'unico modo per evitare scontri fra automobili e animali selvatici nelle strade di montagna è l'eliminazione fisica del maggior numero possibile di cinghiali, cervi, caprioli. Il sistema più giusto e anche più efficace è costruire infrastrutture tenendo conto di tutti gli esseri viventi che frequentano il territorio attraversato. È una questione di giustizia, di intelligenza, insomma, di civiltà. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Per questa settimana è tutto. Vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Gabriele Palloni, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Zenone Sovilla, Camilla Lattanzi, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.